sta nascendo amore, dolce capire che non son più solo, ma che son parte di una immensa vita. Generosa risplende intorno a me, dono di lui, del suo immenso amore. Ci ha dato il cielo. La luna, la